Appoggio le mie chiavi di casa, vedo te. La cosa più bella è che aspetti me, ed io non so il perché. Accoccolati sul divano, resta fuori il mondo così strano. Tutto il male sembra così lontano, e a volte penso che, a volte penso che, a volte penso che, a volte penso che. Quarta ed ultima parte di Rock Legends, continuiamo ad ascoltare i brani del disco dei Critical Project. Come si chiamava questa canzone? Un angelo. E allora, dopo questo disco, quali sono gli obiettivi che attendono la vostra band per il futuro prossimo? Allora, 2 milioni di euro. Magari averli. Beh, l'investimento. No, adesso gireremo un po' per la produzione. A dire il vero, questo nuovo album è solo l'inizio di una lunga serie di album che abbiamo intenzione di incidere. E abbiamo già iniziato a fare qualche canzoncina nuova. Stiamo già lavorando su dei nuovi pezzi, di cui uno penso piacerà a moltissime band italiane. Sì, penso anch'io. È un attacco diretto verso il mondo della musica di oggi, che secondo noi non ha futuro. Un attacco frontale. Esatto. Prima o poi mondo cambieranno. Della musica arriviamo. Prima o poi cambieranno le cose. Vi speriamo. Posso dire in anteprima solo il titolo. Non esiste il titolo, bugiardo. Comunque è il mondo della musica. Vabbè. Va bene. Prossima canzone. Solo una notte. Questa sera notte, questa sera voglio farmi del male, bruciarmi col fuoco, toccare all'amore. Voglio prenderti, prenderti, fammi del male, dammi solo una notte, questa sera voglio farmi del male, bruciarmi col fuoco, toccare all'amore. Voglio prenderti, prenderti, fammi del male. Il tempo scorre e noi ragazzi siamo addirittura d'arrivo. A voi ricordo i contatti per le vostre segnalazioni. Scrivete l'indirizzo email jeanluc76m@yahoo.it. Ricordo il sito www.radiorcs.it per info su Radio RCS e su Rock Legends, oltre che la possibilità di ascoltare la nostra radio anche in streaming. Un sincero grazie a Critical Project per la partecipazione e un auguro di pronto ritorno per un futuro CD. A voi la parola per i contatti web ed email per info sul vostro album ed un calendario di live di prossima realizzazione. Beh, innanzitutto ci tengo a dire che vi aspettiamo domani sera all'Etoile di Ospedaletto di Pescantina, dove ci sarà la presentazione ufficiale del nostro album, Più di un attimo sospeso. Più live. Più live, ovviamente. È prevista una cena, gadget estratti. Ricchissimi gadget. Ricchissimi gadget estratti. E forse il batterista nudo. Mamma mia. Per tutti. Forse. Poi voglio ricordare per le ragazze più carine un bacio da Mars. Ok, dai, però, per stavolta. Poi ovviamente voglio ricordarvi i contatti per gli internauti: www.criticalproject.it oppure myspace.com/criticalproject. Oppure chiunque vada su Facebook e scriva Critical Project ci può trovare. E ci trovate anche su Twitter. Insomma, siamo ovunque come la gramigna. L'erba cattiva, eh? Non muore mai. E c'è dappertutto. Poi se volete il numero di telefono del cantante è disponibile. 3, 4, 8, 8. Non si può. Brano di chiusura di questa puntata. Diciamo Sydney che 1901. Il brano abbiamo scelto quello che apre il CD, un brano a noi molto caro e quindi lo abbiamo scelto per la chiusura di questa puntata. Quindi a voi, Sydney 1901. I numeri giocateli all'otto, mi raccomando. Ecco. Gianluca e Critical Project vi salutano. Noi ci risentiamo venerdì prossimo, quando avremo da Brescia la formazione punk rock dei Rivelard, che ci farà ascoltare alcuni brani del loro disco del debutto, Falling of the Disaster. Ciao! Ciao ragazzi! Ciao! Ciao! Ciao! Cosa dicono i tuoi occhi? Oggi pieni di sogni, domani